Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come immaginate, Grecia è ancora Grecia, la conferenza stampa della Banca Centrale Europea da un lato, le dichiarazioni di Bruxelles tutte rassicuranti dall'altro. Adesso avremo un'ampia pagina per quello che riguarda il caso greco. E poco fa abbiamo raggiunto anche l'ex Presidente del Consiglio, nonché ex Presidente dell'Unione Europea, Romano Prodi, colui quale tra l'altro nel primo governo Prodi portò assieme ai governi Dini e Ciampi l'Italia nell'euro, per capire insomma che cosa non sta funzionando anche a livello europeo, perché è chiaro a tutti che oltre alle colpe gravi, gravissime, responsabilità greche, aver truccato i conti, non aver gestito i conti pubblici, aver fornito false informazioni a Eurostat, avere anche aspettato troppo prima di chiedere aiuto, e queste sono le colpe dirette e oggettive della Grecia, c'è stata una lentezza, un'indecisione europea delle scelte fatte, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, per cui non si è voluto che gli aiuti fossero europei, né di Bruxelles né della Banca Centrale Europea. Per opposizione della Germania si è voluto che gli aiuti fossero bilaterali, quindi ogni singolo paese darà una sua quota, e ancora si è voluto aspettare, la Germania ha voluto aspettare sostanzialmente l'esito elettorale, adesso sembra aver cambiato idea. Insomma, tutta questa incertezza ha di fatto ampliato i margini di intervento per la speculazione, lasciato spazio libero a chi sta scommettendo per un'uscita di un deterioramento della situazione, non solo sulla Grecia ma anche su Portogallo. Le borse però non è che si siano in questo modo tranquillizzate. Dopo un tentativo di viaggiare intorno alla parità, adesso i cali sono di nuovo significativi, soprattutto a Milano. Perché lo dico? Perché Parigi perde lo 0,6, Francoforte mezzo punto, Londra guadagna addirittura lo 0,12, seguendo in questo modo Wall Street che guadagna lo 0,4, Milano perde parecchio, perde l'1,4% rispetto alle altre borse europee, e il motivo si chiama di nuovo settore bancario per alcuni versi. Monte dei Paschi perde il 3%, Fondiaria il 2,5%, ma da noi oggi si chiama anche settore energetico ed altri titoli. Perché lo dico? Fiat perde il 2,5%, Enel perde il 2,1%, anche Eni cede l'1,3%, perdono ma non così tanto come ieri la Popolare Milano meno 0,80, il Banco Popolare meno 1,2%, Intesa cede molto poco, lo 0,3%, Ubibanca lo 0,5%, e Unicredito tra le banche quella che perde forse di più dopo il Monte dei Paschi, perde il 2,2%. L'euro è sceso sotto quota anche 1,32, a 1,31,18, quindi sta viaggiando verso quota 1,30, e insomma a segnale della direzione dei mercati che vanno a vendere euro, scommettendo che questa debolezza greca continuerà a ripercuotersi sull'intera area della moneta unica. Di questo parleremo, poi parleremo anche di qualcosa di positivo, che ieri non siamo riusciti a farle l'intervista, ma insomma c'è un'azienda, lo ricordavamo, che all'Aquila è andata ad assumere 200 persone, ne assumerà altre 200 nei prossimi 24 mesi, visto quello che rappresenta l'Aquila e il territorio aquilano a un anno dal terremoto, ci sembrava importante ricordarlo. E continueranno le nostre interviste con vari capitani di impresa. Abbiamo avuto inizio settimana Vincenzo Novari, numero uno di Tre Italia, e per parlare di telecomunicazioni, banda larga e investimenti. Oggi sarà la volta di un altro Vincenzo, ma non è questa la linea editoriale, diciamo Vincenzo Onorato, numero uno e proprietario di Mobile Lines, in corsa nella gara per acquisire Tirrenia deve essere privatizzata, ne abbiamo parlato molte volte, ma anche, lo ha annunciato il 16 aprile, in via di quotazione in borsa, e anche questa è una notizia perché ci sono poche privatizzazioni e poche quotazioni di titoli di matricole che debuttano in borsa. 349 238 6666 per i vostri sms, Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, partiamo dal petrolio, perché il petrolio è comunque in rialzo nonostante le difficoltà, diciamo, dell'economia europea, ma insomma viaggia a $82.86 al barile e gli aumenti che abbiamo annunciato ieri. È tornato il presidente, ormai mitico presidente dell'Unione Petrolifera Italiana, Pasquale De Vita, a dire: attenzione, è vero che in questi giorni ci sono stati aumenti, ma è altrettanto vero che essi sono pienamente giustificati dall'andamento dei mercati internazionali tornati ai massimi dal 2008. Modestamente non avevamo dubbi che fossero giustificati. Ancora per quello che riguarda la giornata economico-finanziaria, il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola a Napoli ha detto: non è possibile un taglio delle accise, quindi la parte di tasse che gravano per 2/3 sul prezzo della benzina, mi raccomando, buona parte IVA, ma ci sono anche le accise che arrivano dalla crisi di Suez, dalla ricostruzione del Belice, ce l'abbiamo raccontato molte volte, sono tasse caricate sulla benzina e mai più levate, anche se la crisi di Suez mi sembra che si sia risolta, e anche il terremoto del Belice mi sembra che non sia, diciamo, una delle ultime urgenze delle prime urgenze del paese, però insomma ancora paghiamo le accise. E Scajola ha detto: non è possibile tagliare le accise. Ancora per quello che riguarda le notizie di questa giornata economico-finanziaria, il Centro Studi Confindustria fa sapere che la produzione industriale italiana è in stallo nel mese di aprile, meno 0,1%, e questo porta la crescita acquisita nel secondo trimestre allo 0,6% rispetto al primo. Allora, nel primo trimestre abbiamo fatto più 1,8 rispetto all'ultimo trimestre del 2009, cioè il congiunturale. Adesso nel secondo trimestre abbiamo fatto un più 0,6 rispetto al primo, che vuol dire che questo recupero purtroppo sta rallentando. Ancora per quello che riguarda l'economia italiana, oggi si è saputo da una ricerca promossa dalle ACLI, dalla Caritas Italiana, sullo stato di salute delle famiglie italiane, praticamente due famiglie su tre temono la perdita del posto di lavoro, e ancora praticamente il 70% dei nuclei sono, da un punto di vista dei nuclei familiari, sono da un punto di vista economico molto fragili, tant'è che hanno ridotto anche la spesa di generi alimentari. E ancora per quello che riguarda la cronaca di questa giornata economico-finanziaria, insomma, il governo è stato battuto su un emendamento per un voto su un emendamento del PD sul DDL lavoro, quello con che dentro ha arbitrato il cosiddetto articolo 18. Praticamente erano 95 su 269 i deputati del PDL non presenti in aula nel momento in cui il governo è stato battuto, 45 in missione, quindi giustificati, tra cui il capogruppo Fabrizio Cicchito, altri 50 assenti ingiustificati, tra cui il vice capogruppo Italo Bocchino. Della Lega mancavano 11 parlamentari, 8 in missione e 3 assenti, a questo punto non giustificati. E al di là del DL lavoro, è chiaro che questa l'essere andato sotto su un emendamento del PD apre tutta una pagina politica, ma noi continuiamo a occuparci invece della cronaca della giornata economico-finanziaria. E a questo punto fermo ricordando il numero 349-238-6666 per i vostri sms. Questa giornata va in qualche modo raccontata partendo dalla cronologia, perché sennò non si capisce niente. Oggi ci sono decine di dichiarazioni, tutti hanno dichiarato sulla Grecia, come era immaginabile, e poi andiamo invece anche ad analizzare quelle che sono le dichiarazioni arrivate soprattutto dalla Banca Centrale Europea, che oggi è indetta a sorpresa una conferenza stampa. Eh sì, abbiamo preparato anche uno stacchetto perché ormai sta diventando un appuntamento fisso, ahimè, la Grecia. E allora, che cosa è successo oggi? Allora, secondo il Fondo Monetario, gli aiuti, l'ultima notizia che abbiamo, alla Grecia devono salire a 100 miliardi, 120 miliardi di euro. E purtroppo questa era una notizia che già ci aveva dato in diretta tre giorni fa Daniel Gross, direttore del Centro di studi politici economici europei, che il totale non potranno essere 45 miliardi, 15 del Fondo Monetario Internazionale e 30 dell'Europa, ma saranno in realtà almeno 100-120. Il Portogallo, il governo portoghese, perché c'è anche il fronte portoghese, il Portogallo oggi ha detto: faremo tutto il necessario per centrare gli obiettivi di riduzione di debito e deficit. Lo ha detto lo stesso premier portoghese José Sócrates in una conferenza stampa. Il governo e l'opposizione lavoreranno uniti. E allora il numero uno della Commissione Europea, José Manuel Barroso, al tema di un summit tra Unione Europea e Giappone, ha detto: noi siamo determinati a mantenere la stabilità dell'area euro, dell'eurozona, non c'è nessun rischio di contagio per ora. E poi le agenzie di rating, oggi sotto accusa da molti commenti, in effetti abbassare il voto della Grecia e del Portogallo in un colpo solo di 2 gradini, così non si capisce perché farlo ieri, non farlo 2 settimane fa. Va bene, comunque, le agenzie di rating siano responsabili, lo ha chiesto il portavoce del commissario europeo al mercato interno Michael Barnier. No a ogni ipotesi di ristrutturare il debito greco, che lo ha detto Bruxelles, che vuol dire non ci faremo carico di, diciamo, dare degli sconti alla Grecia. La Grecia deve farcela da sola con gli aiuti, con i prestiti, che non sono aiuti ma con i prestiti, e gli aiuti però devono arriveranno, ha detto la Commissione Europea, in tempo utile. Su questo non ci sono dubbi. E poi la conferenza stampa a cui adesso arriviamo. Vorrei dare qualche notizia di mercato, perché insomma su questo le abbiamo. Il rischio di un contagio della crisi greca ha spinto questa mattina a rialzo tutti i rendimenti dei titoli di Stato di Portogallo, Irlanda, Spagna e anche Italia. I bond, i BTP, chiamiamoli così, 10 anni del Portogallo sono saliti di 7 punti base al 5,79%. Ripetiamo sempre, più aumenta il rendimento di un'obbligazione di uno Stato, più lo Stato è a rischio, perché vuol dire che ti costa di più, devi offrire di più, devi offrire un interesse più alto per trovare qualcuno che ti compri il debito, perché evidentemente sei considerato più a rischio. Allora, il Portogallo va al 5,79%, l'Irlanda al 5,22%, la Spagna al 4,12%, l'Italia, le ha viste aumentate di 4 punti base, più 4,08%. Ieri però i bot italiani a 6 mesi hanno avuto una domanda superiore all'offerta, e domani c'è un'altra asta di titoli di Stato italiani da 10 miliardi di euro. E invece non si placa quello che è l'andamento delle obbligazioni greche, continuano a essere ai massimi, oltre 8 punti percentuali di differenza tra quanto rende un'obbligazione greca e quanto rende un'obbligazione tedesca. Qui siamo a delle cifre altissime, praticamente siamo quasi all'11% di rendimento di un'obbligazione tedesca, che se non ricordo, di un'obbligazione greca, perché l'obbligazione tedesca rende il 3%, vado a memoria. E poi anche il rendimento delle obbligazioni a 2 anni ha sfiorato il 20% nelle obbligazioni greche a 2 anni, record storico. E il rischio debito, quello misurato dai CDS, ossia dalle polizze, dal premio che devi pagare come polizza assicurativa se vuoi assicurarti sul rischio paese, è schizzato a un nuovo massimo storico, 900 punti. Ancora Madrid male questa mattina sulla scia di Lisbona, è arrivata a perdere il 3%, e l'euro che, come ricordavamo, è ai minimi da più di un anno. Contro il dollaro siamo a 1,3190 adesso, ma insomma viaggia tra 1,3112 e 1,3170. Allora, ringrazio intanto, facciamo sentire prima gli interventi di oggi e poi ne parliamo con i nostri ospiti. Di Grecia ha parlato anche il Presidente della Camera Gianfranco Fini a margine oggi di della presentazione del quarto rapporto generale classe dirigente all'Università Luiss di Roma, e ne ha parlato soprattutto nell'ottica del rigore sui conti pubblici. Nessun paese si può sentire al di sopra e al riparo da questa onda lunga che può per davvero mettere in ginocchio un'intera economia, ed è indispensabile un rigido controllo della spesa, proprio perché abbiamo un pregresso debito e una condizione complessiva che non ci consente certo di spendere e espandere. Avete ragione, il commissario europeo è Michel Barnier e non Michael, avete ragione, colpa mia, chiedo venia come sempre quando sbagliamo. E ancora per quello che riguarda le accise invece non c'è nessun errore, la somma delle accise, abbiamo fatto 1000 schede su questo, è la somma di un insieme di tasse, chiamatele così in maniera impropria, messe per trovare i soldi per alcune crisi di questo paese nel corso degli ultimi 50 anni. Andiamo avanti con la Grecia. Invece avete appena sentito le parole del Presidente della Camera Gianfranco Fini, anche il Presidente della Ferrari ed ex Presidente della Fiat Montezemolo al microfono della nostra Chiara Grandis ha detto: attenzione che se non si pone un rimedio siamo vicini a un crollo del disegno europeo. Qui c'è tre elementi secondo me, ahimè, di riflessione amara. La prima, il fallimento, io con un po' di provocazione l'ho detto, del progetto europeo, perché alla prima vera prova forte, vorrei dire drammatica, si rischia il fallimento. Io spero che non sia ancora un fallimento, ma non siamo mai stati così vicino rispetto a questo fallimento, che già si vedeva in tanti rischi di difficoltà di mettersi insieme, difficoltà della Costituzione, difficoltà di individuare una politica economica, una politica estera comune. La seconda è del rischio reale che questo comporta, è stato detto nel dibattito molto interessante, nel senso che se la casa del vicino brucia. E terzo, io devo dire che il governo italiano, io approvo totalmente la linea che è stata presa in questi giorni, in queste ore, che sono certo verrà mantenuta, perché qui è un interesse comune. Allora, quando parliamo degli italiani individualisti, devo dire che gli italiani in questo senso stanno dimostrando di non esserlo a livello europeo. Così appunto il presidente della Ferrari Montezemolo. Poco fa, intanto saluto per averci raggiunto in collegamento l'economista Alberto Quadricurzio, che è preside la Facoltà di Scienze Politiche alla Cattolica di Milano, editorialista del Corriere della Sera. Professore, buonasera. Buonasera. Di Grecia parliamo, ma non solo, parliamo anche di Europa, c'è il doppio fronte greco-europeo e il ruolo della Germania. Poco fa il nostro Stefano Totoro ha raggiunto, come ricordavamo, Romano Prodi, ex Presidente del Consiglio, ex Presidente della Commissione Europea, uno degli artefici dell'ingresso dell'Italia nell'euro e anche insomma profondo conoscitore dei meccanismi europei, e hanno parlato, sentiamo cosa dice Prodi, soprattutto anche del ruolo della Germania, del ruolo dell'Europa. Il fatto che si siano fissate le riunioni dei responsabili europei il 10 maggio, cioè il giorno dopo le elezioni, è già una spiegazione. Cioè siamo in un momento in cui l'opinione pubblica e i media sono verso un populismo generico di un paese che si ritiene vittima e artefice di ogni e portatore di ogni peso dell'Europa. E dall'altro lato il corto periodo, la corta visione che ormai quasi tutti hanno, per cui l'elezione imminente, ancorché un'elezione locale, pesa più di un progetto di lungo periodo. Quindi è un classico trabocchetto in cui sta cadendo la democrazia europea e quella tedesca in particolare. Professore, secondo lei l'euro è sotto attacco? Non è l'euro che è sotto attacco, è il caos che c'è all'interno dell'euro che lo indebolisce. Non c'è neanche bisogno di attaccarlo. Quando non si riesce a risolvere un problema che riguarda un paese che ha il 2,6-2,7% del prodotto nazionale, del prodotto interno lordo di tutta l'Europa, e quindi è abbastanza trascurabile, e ugualmente non si prendono accordi di soluzione, vuol dire che manca il manico politico, manca il punto di riferimento. E allora la speculazione, anche se minima, ha un buon gioco di agire, ma non è certo un problema che sia partito da una volontà di speculare, siamo noi che ci stiamo suicidando. I mercati secondo lei scommettono su un collasso dell'unione monetaria? Qualcuno sì e qualcuno no. Se tutti scommettessero per il collasso ci sarebbe stato un crollo completo. Esiste secondo lei una possibilità che l'Italia venga aggredita da speculatori? Non ce ne sono degli elementi. Va bene che l'Italia c'ha un debito elevato, voglio dire, ma c'ha un deficit che è la metà di quello americano e meno della metà di quello britannico. Cioè cerchiamo anche di avere della misura. Allora, professor Quadrio Curzio, ha sentito Romano Prodi, che insomma quanto Europa ne sa, e anche di economia ci mancherebbe, è un Romano Prodi molto critico con la Germania. Adesso ha detto, vabbè, la speculazione c'è, io mi permetto di dire che anche questa mattina in un modestissimo commento avevo ricordato le stesse cose, cioè la speculazione c'è, ma c'è come c'è sempre, se tu dai possibilità alla speculazione di muoversi, questa si muove, come se un gruppo quotato in borsa... Ricorderete cosa capitò ai tempi di Parmalat, quando non si capiva cosa avrebbe fatto. È chiaro che se tu resti, dai informazioni contraddittorie, queste si muovono. E anzi, mi sembra che abbiamo fornito tutto un insieme di elementi, come diceva Prodi, alla speculazione per sguazzarci in questa vicenda. Allora, prima domanda, professor Quadrio Curzio. Fermo restando, lo dico a chi scrive, che non stiamo accusando la Germania di aver causato la crisi greca, lo dico a chi scrive al 349-238-6666. Atene ha truccato i conti, li ha truccati più volte, ha detto che aveva il deficit al 5, al 4, poi era al 13, poi, anzi al 12, poi si è scoperto che era al 13%, poi al 14%. È un paese in cui sono stati assunti 150.000 dipendenti pubblici negli ultimi anni, quasi tutte assunzioni clientelari. È un paese dove la sanità ha un buco di 5 miliardi. È un paese dove le raccomandazioni e le bustarelle costano al sistema circa 20 miliardi di euro l'anno. Un paese in cui l'evasione è così forte che solo 15.000 persone su 11 milioni di dichiarazioni di redditi dichiarano redditi superiori a 100.000 euro l'anno. E qui a qualcuno possono fischiare le orecchie perché qualche similitudine mutatis mutandis c'è anche con l'Italia. Queste sono le colpe greche. Quali sono le colpe? E partiamo dalla Germania e poi arriviamo anche all'Europa. Professore. Ma giustamente lei ha messo in premessa le gravissime responsabilità della Grecia. E dette queste, le responsabilità della Germania sono state quelle di imprimere a tutta Eurolandia, come ha ben sottolineato Romano Prodi, una posizione di rinvio attendista, dapprima nascondendosi dietro l'affermazione che non vi era stata una richiesta ufficiale della Grecia al fine di ottenere un sostegno finanziario, ma dopo che questa richiesta è stata formalizzata il 23 di aprile, continuando a dire che no, non bisognava aiutare, che il piano di risanamento doveva essere più forte, più vigoroso, in ogni caso cercando di rinviare ancora la soluzione del problema. E come appunto si è detto prima, pare che adesso una data di incontro sia il 10 di maggio, cioè il giorno dopo le elezioni del Land di North Rhine-Westphalia. Detto questo, devo anche rilevare che il ministro dell'economia tedesco Schäuble aveva preso ripetutamente una posizione molto più meno diplomatica di quella della più interventista, chiedo scusa, di quella della Merkel, ma è stato rapidamente zittito. Ora la signora Merkel credo che si stia prendendo delle grosse responsabilità, anche se alla fine io spero, continuo a sperare, che data la dimensione piccola di quel paese, alla fine non sarà necessario un intervento gigantesco, certamente maggiore di quello che si era prefigurato all'inizio, per tamponare la situazione. Devo anche aggiungere però che i differenziali dei rendimenti di titoli di Stato, come si è visto negli ultimi giorni, sono veramente esplosi. Oggi il differenziale sui decennali è balzato, con riferimento alla Germania, Grecia-Germania, si avvicina a 8,50 punti percentuali, che è una cosa spaventosa. Sì, insomma, un'obbligazione greca rende quasi a due anni il 20%. Certo. Molti ci chiedono, ma cosa vuol dire? Che come un privato cittadino, se tu sei a rischio, sei considerato da una banca a rischio, ti chiedono un premio molto alto per avere dei soldi, no? Certo. In banca. E la stessa cosa capita a uno Stato. Se tu sei considerato a rischio, la banca, o meglio i creditori, ti chiedono di pagare tantissimo, fino al 20%, quando l'Italia costa tra il 3,5% e il 5%, tra la Germania e l'Italia 3,5% e 5%, prendere soldi a prestito con le obbligazioni. Questo per dire la differenza. Allora, saluto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento anche Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore dalla Germania, da Francoforte. Buonasera, Beda. Buonasera. Visto che tu non l'hai sentito, fare risentire quel pezzettino di Romano Prodi, perché al di là dell'analisi delle colpe della Germania, visto che è uno dei padri dell'Europa, mi ha particolarmente impressionato quanto sta rischiando l'Europa. Non c'è neanche bisogno di attaccarlo. Quando non si riesce a risolvere un problema che riguarda un paese che ha il 2,6-2,7% del prodotto nazionale, del prodotto interno lordo di tutta l'Europa, e quindi è abbastanza trascurabile, e ugualmente non si prendono accordi di soluzione, vuol dire che manca il manico politico, manca il punto di riferimento. E allora la speculazione, anche se minima, ha un buon gioco di agire, ma non è certo un problema che sia partito da una volontà di speculare. Siamo noi che ci stiamo suicidando. Siamo noi che ci stiamo suicidando. Allora, Beda Romano e professor Alberto Quattrocurzi, vi chiederei qualche minuto di pazienza, poi sentiamo anche Jean-Claude Richet. Anzi, sentiamolo adesso e poi andiamo in meteo, pubblicità, e vorrei anche l'analisi di Beda Romano, perché insomma tutti in questo momento i mirini sono puntati contro la Germania, contro questa cosa che prima si aspetta l'elezione in Westfalia e poi si può fare la riunione europea. Insomma, l'idea che è l'Europa essere entrata nella Germania e non la Germania essere entrata in Europa. Sentiamo le rassicurazioni arrivate oggi da Jean-Claude Richet, numero della Banca Centrale Europea, e una conferenza stampa straordinaria. Abbiamo intenzione di portare a termine questo negoziato entro alcuni giorni, come ha detto il ministro. In particolare vorremmo arrivare a un punto conclusivo entro la settimana. La situazione è difficile, tutto dipende da noi, oltre che dal governo greco. Ma io sono ottimista. Posso dire che siamo a un punto positivo della negoziazione. Il presupposto della Banca Centrale Europea, che sugli aiuti alla Grecia sta trattando assieme all'Unione Europea e al Fondo Monetario Internazionale, è che i negoziati abbiano un lieto fine. Dovrà essere un programma coraggioso e convincente, e mi aspetto che gli osservatori ne tengano conto, incluse le agenzie di rating. La Grecia è un caso molto speciale e per questo è così importante avere una buona programmazione e decisioni rapide. La velocità delle decisioni è assolutamente essenziale. Una procedura veloce del Parlamento tedesco è infatti importante, e non posso che ripetere ciò che lei ha detto, signor Ministro. Per noi è estremamente importante che siano prese decisioni velocemente, e sono sicuro che sarà così. In particolare, c'è la necessità assoluta che la Germania decida rapidamente. Così Jean-Claude Richet, ma devo darvi un aggiornamento, non è una bella notizia: l'agenzia di rating Standard & Poor's ha appena tagliato il voto al debito spagnolo. Resta ancora un buon voto, ma non è sicuramente una bella indicazione. Infatti l'euro sta subito perdendo nei confronti del dollaro, è tornato a 1,31,4. Il debito spagnolo è stato portato come voto a doppia A, con un outlook con prospettive negative. E allora da questo ripartiamo dopo il metro della pubblicità. Io ricordo l'ammonimento che abbiamo dato anche ieri: Grecia capta ferum victorem cepit, professor Quattrocurzi. Attenzione a che poi non si spanda dappertutto la Grecia in ginocchio si vendichi. Ne parliamo tra qualche minuto. 349-238-6666 per i vostri sms. 17:40 minuti di nuovo in diretta con Focus Economia e ci siamo lasciati prima della pubblicità del meteo con un nuovo abbassamento del voto di uno Stato. È toccato oggi alla Spagna, ieri Grecia e Portogallo, oggi Spagna. Non vi dico la reazione sul mercato, l'euro da 1,323 è sceso a 1,313, ma soprattutto le borse hanno perso tutte un punto percentuale in chiusura. Parigi quindi chiude con un meno 1,3, Francoforte meno 1,2, Milano, che già perdeva un punto in più rispetto alle altre, perde il 2,43%. Allora, Beda Romano, manco ci avessero sentito, è arrivato l'abbassamento di voto alla Spagna. Tutti ce l'hanno con la Germania e ieri, stamattina, abbiamo fatto un commento dicendo: ma insomma, forse la casa europea che rischia di bruciare è più importante del Nord Renania-Westfalia, pur capendo le esigenze elettorali di Frau Merkel, o no? Ma la situazione, dietro la posizione tedesca in tutta questa vicenda si nascondono vari fattori, bisogna dire. Ne elencherei tre o quattro fondamentalmente. C'è certamente opportunismo politico. C'è opportunismo politico perché in questo paese una maggioranza dei tedeschi è contro l'aiuto e il salvataggio della Grecia e la signora Merkel ha guardato ai sondaggi, ha guardato al voto del 9 maggio nel Reno-Vestfalia, ha fatto due conti e sulla base di questi due conti in queste settimane ha frenato sull'aiuto alla Grecia. Credo però che ci siano anche motivi più di lungo periodo. Vi è certamente la convinzione economica da parte di una fetta consistente del paese che non bisogna aiutare i paesi che hanno mentito e che hanno truccato i conti. Poi c'è un'altra convinzione, questa più economica, che secondo la quale aiutare la Grecia oggi significa in un modo o nell'altro introdurre il seme dell'azzardo morale in Europa e permettere in un modo o nell'altro ad altri paesi come il Portogallo per esempio a non fare abbastanza per ridurre il proprio debito. E poi credo che vi sia un ultimo fattore molto più generale ed è il sentimento di autosufficienza e quasi di nazionalismo che imperversa in Germania. Il paese, un po' perché è ricco, un po' perché è grande, un po' perché è potente, un po' perché esporta ai quattro angoli del pianeta... Un po' perché sono tedeschi... No, dai, no, mi fai la battuta. No, sì, ma non è quello, insomma. Un po' perché esporta ai quattro angoli del pianeta, è un paese che pensa di essere autosufficiente. I suoi interessi non sono concentrati in Europa, vive nel mondo e per questo motivo assume in queste circostanze una posizione estrema e pensa di essere autosufficiente. Allora, adesso farò anche i mercati, chiedo a tutti quelli che sono in ascolto un po' di pazienza, arriveremo ai mercati, oggi c'è poco da dire come ieri, va tutto male per via dei motivi greci, portoghesi e a questo punto anche spagnoli. Però una cosa, giro nella riflessione che ha fatto correttissima, ci mancherebbe, Beda Romano al professor Quadrocurzio. Tutto questo avrebbe però un senso se la Germania potesse non aiutare la Grecia. Invece la Germania, che dopo la Francia è il paese più esposto, perché beh, io capisco che vivono nel mondo, però poi sono le banche tedesche che hanno dato più di 40 miliardi alla Grecia, cioè le banche italiane hanno dato 5 miliardi e mezzo alla Grecia e anche noi viviamo nel mondo, esportiamo, le banche tedesche sono ben impelagate più dopo quelle francesi, ma insomma la Germania comunque ha detto che darà 8 miliardi e mezzo. La Francia ne darà 6 di prestito e ci guadagnerà la Germania circa 620 milioni come rendimento. Per cui non è che l'alternativa sia tra non aiutare e aiutare, è proprio sui tempi, sul fatto che si aiuta ma come e quando vuole la Germania. Professor Quadrocurzio, sarebbe stato meglio, voglio dire, se la California è in default, è in fallimento come la Grecia, non esiste che arrivi il Fondo Monetario Internazionale a salvare la California, il governo americano... E non esiste nemmeno che il Texas dia un aiuto alla California, poi un altro aiuto lo dà lo Stato di New York, un altro aiuto lo dà l'Arizona. Cioè il governo federale americano dà un aiuto alla California perché la California è tecnicamente in bancarotta. Non si poteva fare così anche in Europa, cioè l'aiuto doveva essere o della Banca Centrale Europea, che tanti soldi li ha, ne ha usati decine, centinaia di miliardi per salvare le banche europee, o quantomeno di Bruxelles. Ma guardi, io credo e sostengo da anni, così come lo sostiene Romano Prodi, lo sostiene Giulio Tremonti, che un varo di un fondo europeo di sviluppo, di sostegno, un fondo monetario europeo sarebbe stata la via maestra per andare incontro non solo a stati in difficoltà che comunque vanno commissariati dal punto di vista finanziario, ma anche per attuare dei piani di sviluppo adeguati per far crescere di più l'Europa. Tra l'altro non sarebbe stato molto difficile, perché di liquidità in giro ce n'è un'enormità, e sarebbe bastato porre a garanzia di questo fondo europeo le riserve auree inattive di tutte le banche centrali, ho detto a garanzia, non venderle, per piazzare facilmente sui mercati internazionali dei capitali titoli di Eurobond e per finanziare tutto quello che ho detto prima. Ciò non è stato fatto e a mio avviso è un errore grave, è una limitazione molto pesante che credo segnerà l'Europa non solo per quanto sta accadendo oggi ma anche in futuro. Andando però sul caso più specifico della Germania, lei ha detto bene, la Germania è un paese che dal punto di vista bancario è esposto per enormi cifre, non solo e non tanto verso la Grecia, ma per esempio verso la Spagna, ragion per cui se la Germania pensa di essere autosufficiente, sarà autosufficiente in condizioni di sistema bancario pressoché fallimentare. Inoltre vorrei anche rilevare che la Germania è ben vero che ha un surplus commerciale gigantesco, ma l'ha anche realizzato esportando verso paesi dell'area euro che non possono più fare svalutazioni competitive che erano molto fastidiose per la Germania. Allora io, dopo arrivo ai mercati, ripeto chi ce lo chiede, è arrivato un abbassamento di voto al debito spagnolo alle 17:31 minuti, quindi poco fa, portato il debito spagnolo a doppia A, è ancora un livello buono, ci mancherebbe, però con prospettive negative, comunque un ennesimo segnale. Un minuto per il traffico e poi, Beda Romano, l'ultima domanda per te, cioè che cosa capiterà se, nonostante tutto questo atteggiamento di Angela Merkel, le elezioni dovessero andare male per il cancelliere? Cioè cosa dobbiamo attenderci dalla Germania a sto punto? 349-238-6666 per i vostri sms. 17:49 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, chi scrive, non è che nessuno pensa che sia una cosa, una bestemmia essere contro l'Europa. Stiamo ragionando di quello che è successo e provocatoriamente abbiamo detto, insomma, mi sembra che sia l'Europa a essere entrata in Germania, non viceversa. Beda Romano, che cosa capiterà se le elezioni del 9 maggio in Germania dovessero andare male per Angela Merkel, nel senso di dimostrare che c'è un sentimento prevalentemente, passami il termine, isolazionista, se la Grecia si arrangi, noi non vogliamo pagare per gli errori di altri in Germania? Ma tecnicamente, se la signora Merkel perde le elezioni nel Nordrhein-Westfalia, perde la maggioranza al Bundesrat, che è la Camera delle Regioni. L'attuale governo federale, che è un governo democristiano liberale, avrebbe la maggioranza soltanto nella Camera bassa, il Bundestag, non avrebbe più la maggioranza al Bundesrat, la Camera alta. Da un punto di vista politico, questo è abbastanza cruciale. La signora Merkel sa perfettamente che la caduta di due cancellieri negli ultimi 10 anni, sia il cancelliere Schröder, socialdemocratico, sia il cancelliere democristiano Helmut Kohl negli anni 90, perderono a un certo punto le elezioni federali perché non riuscivano più fondamentalmente a governare. Ambedue avevano la Camera alta, la Camera dei Länder, contro il governo a Berlino. Quindi ecco perché la signora Merkel ha molta paura di perdere queste elezioni nel Nordrhein-Westfalia. È il futuro del suo governo e il futuro della sua carriera politica che sono in gioco per molti aspetti. Sì, va detto che oggi il ministro delle Finanze Wolfgang Schäuble ha detto anche che la Berlino è pronta ad aiutare, l'ho detto 2 ore fa, e che lunedì 3 maggio arriverà la decisione sugli aiuti alla Grecia. Per Berlino è anche concepibile un aumento degli aiuti, ha creato una task force. Poco fa Angela Merkel, 3 minuti fa, ha dichiarato che è necessario velocizzare gli aiuti alla Grecia. Lo ha detto a se stessa, se mi permette la battuta. Professor Quadricurzio, ha sentito lo scenario di tratteggiato da Beda Romano, se le cose dovessero buttare male nelle elezioni tedesche del 9 maggio. La sua analisi. Ma guardi, ho sentito anche la battuta di Barisoni, cioè Angela Merkel, che ha detto a se stessa, e mi pare che sia un modo estremamente efficace per dire che questa signora, questa importante donna statista, avrebbe dovuto prendere esempio da grandi altri statisti tedeschi come Helmut Kohl, che prese due decisioni straordinariamente importanti, quella di unificare la Germania con un cambio 1-1 che era stato considerato poco meno di una follia e tuttavia adesso si rivela una scelta cruciale per quel paese, e in secondo luogo determinare l'ingresso in Eurolandia anche di un paese come l'Italia, paese del tutto rispettabile perché la nostra manifattura ha una potenza a scala mondiale, ebbene farla entrare pur avendo l'Italia una situazione di debito non particolarmente incoraggiante. Il problema è che un conto è essere dei buoni amministratori di condominio, un problema è essere degli statisti, e a mio avviso la differenza tra Kohl e la Merkel è questa. Vabbè, Beda Romano, in una battuta perché ce lo chiedono gli ascoltatori, ma insomma, è l'ipotesi di far uscire la Grecia dall'euro, questa è una delle cose che sentiamo più chiedere anche fuori dalla trasmissione in giro. A, il trattato di Maastricht non prevedeva l'uscita di un paese, no? Però in effetti tra la cura del Fondo Monetario, che sappiamo che è una cura di salassi, come i medici, i cerusici una volta, fatta di sanguisughe applicate al corpo, per cui devi tagliare le pensioni, tagliare le tredicesime, tagliare gli occupati, e l'Argentina ne sa qualcosa, forse alla Grecia converrebbe uscire dall'euro, avere una dracma svalutatissima con cui potrebbe esportare qualcosa, ma è pensabile che si arrivi a questa soluzione? Prima Beda Romano e poi Alberto Quadrocuzio. Beh, è l'ipotesi consigliata, suggerita ogni tanto da alcuni filoni dell'establishment tedesco, a questo fine settimana la CSU, lunedì l'FDP. Il trattato di Lisbona non prevede l'uscita dalla zona euro, ma prevede l'uscita dall'Unione Europea. Un singolo paese può decidere di uscire dall'Unione Europea. Certo, il problema è la convenienza politica, economica, sociale. Apparentemente tutti dicono che non conviene uscire dalla zona euro e soprattutto non conviene probabilmente all'Europa in questo momento permettere a un paese di uscire dalla zona euro, perché sarebbe drammatico da un punto di vista politico e per il prestigio dell'Unione. Professor Quadrocuzio, l'uscita, la svalutazione della dracma competitiva sarebbe meglio della cura da cavallo che rischia di portarsi via anche il malato ogni tanto del Fondo Monetario? Dunque, guardi, io credo che se la Grecia uscisse dall'euro dovrebbe nel contempo ripudiare il proprio debito pubblico e allora mi chiedo dove andrebbe con una dracma che non vale nulla e avendo ripudiato il debito pubblico ad acquisire comunque sul mercato dei capitali delle risorse finanziarie per delle necessità anche minime. Certo, se la Grecia alza le palizzate verso il resto del mondo, allora può farcela, ma altrimenti neanche alla Grecia conviene uscire, perché credo che non riuscirebbe proprio più a sopravvivere. La Grecia, guardi, che non è l'Argentina, che pur ha avuto delle grosse difficoltà. L'Argentina è un continente con un sacco di risorse naturali. Sì, è vero. E la Grecia che cosa esporta? Sì, avrà un po' di turismo, ma ci vuole altro. D'accordissimo, grazie a tutti e due, vi ho tenuto più del previsto, ma nel frattempo è arrivato questo abbassamento del rating, del voto al debito anche spagnolo, grazie ad Alberto Quadrocuzio, che è preside della Facoltà di Scienze Politiche alla Cattolica di Milano, editorialista del Corriere della Sera, e grazie a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. E adesso il resto della cronaca, della giornata, i mercati. Devo dire che si sperava stamattina che le cose andassero in maniera un po' diversa, poi appunto tensioni sulla Grecia, tensioni sul Portogallo, i rendimenti delle obbligazioni greche ai massimi, ormai il 20% quasi rende comprarsi un BTP a due anni greco, e l'abbassamento del voto alla Spagna hanno fatto perdere a Milano il 2,40, a Parigi l'1,50, a Francoforte l'1,20, e a Londra lo 0,30, Londra tra i migliori, segue l'America che guadagnano 0,20%. Euro ai minimi da più di un anno, 1,31,4. Tra i titoli, chi più ha perso per quello che riguarda oggi il mercato? In assoluto ha perso Bulgari -4,5, Azimut -4,20, Geox -4,20, Monte dei Paschi -3,90, CIR -3,70, Unicredito -3,60, Fiat -3,50, Fondiaria -3,50, Impregilo pure, Exor -3,30, Comital Cementi, il 3,20 l'ha perso Parmalat, il 3% Enel, Generali e Pirelli di Borsa e di Spagna. Parliamo dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri sms. -8:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Anche oggi, come ieri, modifica della scaletta di questo programma, per cui cercheremo di far ascoltare le notizie positive che arrivano dall'Aquila e a questo punto l'intervista che abbiamo realizzato con Vincenzo Norato sulla quotazione della Mobilines, sulla gara per acquisire Tirrenia inesorabilmente slitta. Riepilogo brevissimo per chi si fosse appena messo in collegamento. Conferenza stampa sorpresa oggi della Banca Centrale Europea per dare rassicurazioni sulla Grecia. Però mentre eravamo in diretta alle 17:30, 31 minuti per la precisione, abbassamento di voto sul debito anche della Spagna. Quindi ieri Grecia e Portogallo, oggi Spagna, Standard & Poor's. Borse che sono peggiorate tutte di un punto percentuale in 10 minuti. L'euro adesso è vicinissimo a quota 1,30, siamo a 1,31,1, peggioramento anche per l'euro sul dollaro. Milano la peggiore, già perdeva un punto in più rispetto alle altre e lo ha confermato, perde il 2,4% Milano, l'1,5% Parigi, l'1,2% Francoforte e lo 0,31% scusatemi Londra, che è la migliore. L'America adesso ha annullato i guadagni, in parità. Devo dire che oltre al che la dichiarazione di Angela Merkel poco fa, che ha detto è necessario velocizzare gli aiuti ad Atene, e abbiamo detto con una battuta che stava parlando a se stessa, poco fa Strauss-Kahn, numero uno, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, ha detto l'euro versa in una situazione grave, e su questo insomma Dominique Strauss-Kahn non è che abbia aggiunto molto, molto in più non ci ha dato una mano, mettiamola così, perché insomma dire che l'euro versa in una situazione grave, a Dominique Strauss-Kahn il nostro urlo di battaglia, il nostro grido di guerra. Eh sì, anche oggi il gufo se lo becca qualcuno, va bene così, si fa per dire. La Casa Bianca poco fa in un comunicato ha detto di seguire con preoccupazione la situazione del debito greco e l'amministrazione di Barack Obama sta seguendo gli sviluppi molto da vicino. Tutti in attesa della Nordrhenania-Westfalia, a quello è appeso il destino dell'euro, le elezioni tedesche. Vabbè, poi ci collegheremo con la Spagna, adesso però vi faremo ascoltare anche altre dichiarazioni. Romano Prodi ai nostri microfoni, Jean-Claude Trichet questa mattina in conferenza stampa, questo pomeriggio in conferenza stampa. Volete sapere quanto rendono le obbligazioni greche? Quelle a 2 anni rendono quasi il 20%, è schizzato a record infatti la differenza tra quanto rende un'obbligazione tedesca e un'obbligazione greca, nuovo record, e nuovo record anche per quanto costa assicurarsi sul debito, sul rischio paese Grecia. I credit default swaps sono schizzati infatti a un nuovo livello massimo. A 901 punti. Praticamente la Grecia in questo momento, se vogliamo misurare il rischio paese con i CDS, è il paese più rischioso al mondo, più rischioso di Venezuela, Argentina e Pakistan, che pagano il premio più alto quanto a polizza assicurativa per assicurarsi sul rischio paese. E però Livia Zancaner, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Vabbè, come ieri, oggi trovare degli spunti, trovare un senso a questa storia è un po' difficile. Bulgari -4,5, Azimut -4,20, Geox -4,20, Monte dei Paschi -3,90, CIR -3,70. Diciamo chi ha perso di meno. Facciamo prima. ST Microelectronics -0,40, Tenaris -0,50, come Telecom, Snam perde lo 0,70, Terna perde lo 0,90 come Unipol, un punto percentuale Campari e l'1,2 lo perdono Ansaldo, l'1,4 l'ha perso Prismian, l'1,5 Intesa e anche Mediolanum, l'1,6 l'ha perso Ubibanca, l'1,90% l'hanno perso Autogrill e Banco Popolare, tutti gli altri titoli hanno perso tra il 2 e il 4%, appunto, tranne Geox, Azimut e Bulgari che hanno perso più del 4, il 4,20 e il 4,5. Allora, non so, ST Microelectronics? Sì, allora, cioè, ST Microelectronics ha... Bene, allora questa mattina viaggiava in territorio positivo e bene o male poi ha seguito l'andamento del mercato, quindi si è risollevato prima dell'apertura di Wall Street e poi ha chiuso sotto la parità seguendo appunto l'andamento negativo delle borse. ST ha tenuto in quanto ha chiuso a meno 0,4% e ha beneficiato del sentiment positivo sul mercato dei semiconduttori dopo che questa mattina il gruppo tedesco Infineon, che è il concorrente, ha rivisto al rialzo le stime per l'esercizio 2009 e 2010 grazie ai risultati migliori delle attese realizzati nel secondo trimestre. ST è andata bene anche a Parigi, dove ha guadagnato terreno. Ancora Telecom Italia, domani c'è l'assemblea, gli analisti, se ho ben capito, scommettono anche che si risolverà la vicenda brasiliana, anche qui, vista la giornata, il titolo perde poco, lo 0,5%. Sì, le azioni oggi hanno perso poco, quindi hanno resistito alle vendite, bisogna sottolineare che però il titolo era stato messo sotto pressione nelle scorse sedute, tant'è che le azioni avevano ceduto il 5,4% circa, negli ultimi tre giorni, quindi domani appunto c'è l'assemblea degli azionisti e secondo il mercato i punti di forza della società saranno TIM e il Brasile, e già praticamente a metà aprile erano state date delle stime positive sulla futura crescita del mercato brasiliano. Inoltre sono arrivati anche oggi dei giudizi positivi da parte di alcuni analisti che hanno consigliato di comprare le azioni. Ancora, dunque, per quello che riguarda alcuni commenti che stanno arrivando, ma come fate a dire che tutto dipende dalla Westfalia, Nordrhein-Westfalia, dalle elezioni regionali tedesche del 9 maggio? Era chiaramente una provocazione, una battuta, perché insomma è incredibile che tutta la vicenda greca, del salvataggio greco e lo spazio dato alla speculazione mondiale. È vero, ne parlammo, che a febbraio si riunirono 4 tra i principali proprietari di hedge fund al mondo in un edificio di Manhattan per cena, tra cui Soros e Johnson, decisero, da quello che si è ricostruito, di speculare sulla Grecia, su un indebolimento dell'euro, su una difficoltà complessiva della moneta unica. Diciamo che noi come paesi europei e i tedeschi in primo luogo gli abbiamo dato una grossa mano, mettiamola così. Andiamo ancora, Azimut malissimo oggi in borsa, che è successo? Azimut e Bulgari, direi, meno 4,20 e meno 4,50 Bulgari, aggiungiamoci anche Geox, meno 4,20 anch'essa. Sì, allora, per quanto riguarda le azioni Azimut, i titoli hanno perso complessivamente circa più o meno oltre l'8,3% dalla chiusura di lunedì. Non ci sono state notizie negative, in realtà anzi la società ha precisato di non avere titoli greci o portoghesi in portafoglio, quindi in realtà questo avrebbe dovuto rassicurare il mercato, invece è stato il secondo titolo peggiore sul paniere principale. Per quanto riguarda Bulgari e Geox, bisogna dire che sono stati penalizzati dalle vendite generalizzate sui mercati, anche perché comunque la scorsa settimana avevano realizzato performance positive, Geox in particolare venerdì e lunedì, e Bulgari la settimana scorsa aveva avuto un andamento al rialzo. Allora, tra i migliori invece Seat pagine gialle più 3%, Seat bene, ne parliamo magari dopo le informazioni sul traffico. Molti messaggi che arrivano, non riusciamo a rispondere a tutti, al 349-238-6666, sul futuro, su cosa potrebbe capitare. Abbiamo cercato di capirlo in apertura di programma con Romano Prodi, Beda Romano e il professor Alberto Quadrio Curzio. Oggettivamente, al di là delle dichiarazioni rassicuranti ma che non stanno servendo sui mercati, nessuno l'ha ben capito, e l'effetto domino mi sembra che sia già in atto, ieri il Portogallo, oggi la Spagna. C'è poi chi dice: inutile che lei mandi in onda il gufo, dovrebbe fare autocritica e coprirsi il capo di cenere, visto che in questi mesi non ha fatto altro che spargere ottimismo senza fondamento alcuno durante le sue trasmissioni. Sì, Infatti abbiamo sparso ottimismo, una trasmissione che ha parlato solo di elementi ottimistici. Allora, mentre vado a cercare la cenere, il traffico e poi il resto dei titoli sul mercato. 349-238-6666 per i vostri sms e parliamo anche di Spagna. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Chiarisco, poi basta. Il nostro gufo lo diamo per esorcizzare e soprattutto quando vediamo delle frasi che cioè così, menano un po' di sfortuna senza spiegare perché. Perché nel momento in cui il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, dice l'euro versa in una situazione grave e non aggiunge altro, boh. Invece una notizia che è appena arrivata forse potrebbe cambiare i mercati, perché il pacchetto di aiuti alla Grecia supererà i 100 miliardi di euro in 3 anni, quindi i 45 che ancora devono partire sono solo una prima parte. Lo ha detto oggi il ministro dell'economia tedesco Rainer Brüderle a San Paolo. Secondo i calcoli del ministro il pacchetto viene stimato in 135 miliardi di euro su 3 anni, 2010-2012. Livia Zancaner, confortaci tu con Seat, almeno quella. Sì, allora Seat è stato uno dei pochi titoli in controtendenza, ha guadagnato il 3%. Allora, le azioni hanno beneficiato dell'annuncio della partnership con Poste Italiane per l'offerta di servizi di posta elettronica certificata e comunicazione elettronica postale. In realtà oggi vi è stata anche l'assemblea dei soci e a margine della riunione il direttore finanziario ha detto che dopo la pubblicazione della trimestrale, che è in calendario per il prossimo 11 maggio, Seat fornirà un aggiornamento sui target di EBITDA per fine anno. Se verranno confermati questi target, la società non avrà alcun problema a rispettare i vincoli sul rimborso del debito e quindi il mercato, oltre all'accordo con le Poste, ha premiato anche queste dichiarazioni. Grazie Livia Zancaner, e noi ci risentiremo in altri collegamenti, speriamo così, con un po' più di notizie che non siano l'atteggiamento solo ribassista del mercato per via delle tensioni su Grecia, Portogallo e adesso anche Spagna, infatti dalla borsa italiana a quella spagnola. Meno 3% l'indice IBEX oggi, la peggiore borsa. Atene non l'ho neanche guardata, vi dirò la verità, adesso magari vediamo cosa ha fatto Atene, però la peggior borsa tra quelle europee. Michele Calcaterra, corrispondente del Sole 24 Ore da Madrid, buonasera. Buonasera a voi. Allora, 17:31 minuti, ha abbassato il voto alla Spagna, dice che insomma Standard & Poor's dice che l'agenzia di rating Standard & Poor's che ha timori sulle entrate fiscali, la Spagna viaggia con una disoccupazione al 20%, un deficit che quest'anno sarà del 10% sul PIL, il doppio di quello italiano, l'anno prossimo al 9%, il debito continua a salire, è ben al di sotto di quello italiano, circa la metà rispetto al PIL, però quest'anno andrà al 66%, l'anno prossimo al 74%. Allora, senza voler essere pilateschi, ma insomma qui il bicchiere può essere mezzo pieno o mezzo vuoto, una doppia A è ancora un buon voto. Certo che ieri sia toccato a Grecia e Spagna, e Grecia e Portogallo, e oggi alla Spagna, non è che ci metta di tanta allegria. Sono forti le preoccupazioni in Spagna di essere la prossima preda, il big fish, il pesce grosso. Sì, o il big pig. Dipende. O big pig, maiale grosso, bravo Michele, bravo, un po' d'allegria ogni tanto. Esatto. Vai. No, qui la grossa preoccupazione dei giorni scorsi era appunto la contaminazione che poteva venire direttamente dal Portogallo, che come sai vive in simbiosi con la Spagna, tant'è che un terzo del debito del Portogallo è verso la Spagna, cioè la Spagna ha comprato un terzo del debito del Portogallo, per cui questa mannaia di Standard & Poor's anche sulla Spagna, boh, se l'aspettavano, però chiaramente apre un nuovo orizzonte in quello che è la crisi dell'economia spagnola e quindi la tenuta anche degli impegni che hanno con l'Europa di riduzione del deficit e del debito e via di seguito. Sai, quello che fa così un po' spavento è che questo Zapatero continua a parlare di che la disoccupazione è al massimo, che diminuirà da maggio, che l'economia sta andando meglio, insomma invece è un paese che è ancora fermo e che purtroppo ha davanti a sé ancora mesi molto difficili, tanto più adesso quando il debito costerà di più, e costerà di più non solo al, diciamo, al paese Spagna, ma anche a molte imprese. Non parlo di quelle grosse, ma parlo di quelle più piccole, che sono molto concentrate sull'economia domestica e soprattutto le casse di risparmio. Questo è un grosso punto di domanda, potrebbe essere una voragine e il colpo di grazia. Oddio, è ripartito con un tono allegro, mi hai chiuso sul colpo di grazia. No, restando però serissimi, vedo che l'euro un po' si è ripreso dopo questa dichiarazione del ministro tedesco. Certo che io dico una cosa, arrivare all'ultimo minuto con le dichiarazioni da San Paolo, quando è un mese che parliamo di questo prestito, un mese che la Germania ostacola qualunque intervento europeo, che si chiami Fondo Monetario Europeo, che si chiami Banca Centrale Europea, per queste benedette elezioni in Renania, Nord-Westfalia, fondamentali, ma solo per la Germania. Un'altra domanda, Michele Calcaterra. C'è chi dice, insomma, la Spagna però è un boccone troppo grosso per la speculazione. E attenzione che non si può giocare con la Spagna come si gioca con la Grecia. In Spagna c'è questa sensazione o si ritiene di essere, appunto, così, in realtà anch'essi attaccabili? E mi riferisco non alla partita di questa sera. Sì. Sai, sicuramente la Spagna è un paese con un grande orgoglio di fondo e un paese che si sente tra i grandi, se non altro dell'Europa, e quindi diciamo che fa di tutto per mantenere le distanze tra quella che è la Spagna e la sua taglia e il Portogallo, la Grecia. Sicuramente sono cose diverse, sono dimensioni che non sono comparabili. Certo è che quando si muove la speculazione, io mi ricordo alla fine degli anni 90 vivevo in Asia e anche lì quando è partita la speculazione è partita diritta, insomma non ha guardato in faccia a nessuno. Per cui... Oh Michele, dici dove vai a evitare la prossima volta, perché così ci regoliamo, non vorrei ci fosse anche un fattore Calcaterra. Nel frattempo sono stato in Francia e la performance della Francia almeno questo, vabbè. Non so come altro metterla oggi. Grazie Michele Calcaterra, corrispondente Sole 24 Ore da Madrid. Volete riascoltare, secondo me è particolarmente importante, ve lo facciamo riascoltare, non tanto quello che ha detto oggi la Banca Centrale Europea, che ha rassicurato, non c'è nessun default, nessun fallimento possibile per la Grecia, le agenzie di rating ha chiesto all'Europa siano responsabili, Jean-Claude Trichet ha ricordato, attenzione, insomma gli interventi saranno forti. Per quello che riguarda la Grecia, le agenzie di rating devono considerare il piano di Atene. Strauss-Kahn ha detto ogni giorno perso è un giorno in cui la situazione peggiora, il direttore generale del Fondo Monetario. Però, e Trichet ha anche detto di essere fiducioso sul buon esito dei negoziati con Atene e che i negoziati si concluderanno nel fine settimana. Già però fu detto quando vi fu l'accordo 2 settimane fa. Comunque, Romano Prodi, intervistato dal nostro Stefano Totoro, questo passaggio, l'intervista era un po' più lunga, ve l'abbiamo fatta sentire, sull'atteggiamento tedesco. Non c'è neanche bisogno di attaccarlo. Quando non si riesce a risolvere un problema che riguarda un paese che ha il 2,6-2,7% del prodotto nazionale, del prodotto interno lordo di tutta l'Europa, e quindi è abbastanza trascurabile, e ugualmente non si prendono accordi di soluzione, vuol dire che manca il manico politico, manca il punto di riferimento. E allora la speculazione, anche se minima, ha un buon gioco di agire, ma non è certo un problema che sia partito da una volontà di speculare, siamo noi che ci stiamo suicidando. Così Romano Prodi, per questa puntata di Focus Economia è veramente tutto. Domani vediamo, non le annuncio più le buone interviste, le buone notizie, che ogni volta che lo facciamo succede di tutto. Domani avremo anche altre cose, mi auguro. Nel frattempo passate una buona serata e noi ci risentiamo dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.